bisogna che la smontiamo, risaldiamo la carica e poi c'erano i fili di nuovo sopra, nella gaffa. L'unica cosa bisogna fare così, non bisogna fare altro. Staccarla, faccio entrare la trappola dentro, come l'ho fatto un'altra volta, smontiamo la base di sotto, saldiamo la carica e ce la rimetti. Hanno rimuovi i radiali, perché quando vicino di quei radiali sono ossidati adesso. Vediamo un po', Antonella, vediamo, dai. Vediamo la prossima settimana cosa ne esce fuori. Cosa ci voleva? Una 13, sì. Sì, la 12, 13 ci vuole, per abbassare il palo. E poi una 10, vabbè, ma una 10 non ce ne facciamo un cazzo, perché c'entriamo un palo e antenna come abbiamo fatto un'altra volta. Ci vuole una pappagallo per svolare il coso di sotto, ma già c'è la chiave grande, quindi non penso ci voglia il pappagallo. Vuole svoltare il bulloncino di sotto che tiene il PL. Vediamo la prossima settimana, Antonio. Bene, va bene, va bene, non ci sono problemi. Ma sta sempre funzionando bene, sì, sta arrivando bene. Sì che sta arrivando bene. E cappala, 5 watt, senza quella questione. Voglia che esci bene. Ma sei con l'Inter o con l'altro? Ora con l'Inter che sono, in macchina. Che va bene allora. Va bene. Per me c'è qualcosa anche quando ha fatto il PL che ci sta mollando quel coso per attaccare il PL, non c'è anche l'importanza a quello. Ah no, non c'è tanto il PL, si è smollato la carica, non si può fare, come l'altra volta. Si è risaldato quel cazzo di rame. Lo allunghiamo il centimetro e ve lo riagganciamo. E allora non si muove più. E va bene, alla prossima settimana, dai. Ok, dai, ciao. E a ciao Giuseppe, ci sentiamo. Alessio! Sì, dimmi. Adesso ci corro. Ho capito. Ma c'è Antonio? Ah, ti sei. Come intanto c'è una porta per strada a Santiago Nove, ti passa. C'è la parola di propagazione in FM, se c'è qualcuno che parla in FM ti dà, ti qui paga. Sì, va bene, guardate, capisci da. Sei anche leggermente fuori, mi centrati, che sei. Non sei 015, sei 017. Fuori, così è. Sì, leggermente fuori frequenza, sì. Devi fare cose, forse hai toccato. Ho rimesso a posto, l'ho rimesso. Sì, perché era una laterale, però adesso l'ho rimesso a posto, però guarda, il frequentimetro mi sta dando 16.6. Normalmente siamo 27.015 noi, 00. Quindi sei spostato appena appena in su. Scendi appena appena in giù con frequentimetro tramite file e corse, sei a posto. Aspetta, bene, si è spostato. Ehi, che andrà bene. Ti sento benissimo, te qua. con la antenna, con la direttiva, quindi ho fare proprio spostato, senti, c'era quella NFM che ti crepava, uscivo meglio poco fa. Frequenzimetro che quando lo accendi il sapometro lo faceva di subito spesso, era il tutto, e appena lo accendi fa 0-1, 0-1, 0, sì, una volta arrivata a quelle, cioè 15 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti di trasmissione si stabilizza la zona. Hola, c'è qualcuno? Chi è? Chi è este? Ciao, Pompo, buongiorno. Ciao, Massimiliano. Ma sono salito, stavo facendo cosa, Antonio? Yeah, non c'è problema. Giuseppe già è da fratello adesso. Allora, facciamo la prossima settimana. Io la prossima settimana sono libero, al limite una mattina salgo presto e andiamo a guardiamola. Sì, infatti, bisogna fare così per forza. Io sono svegliato stamattina presto perché ho passato già la Grand Prix, invece non c'è passato. Vabbè, al limite martedì o mercoledì, perché domani sono impegnato. Martedì o mercoledì ci mettiamo d'accordo e la mettiamo in macchina e la attacchiamo. Va bene, va bene, ok. Siamo ancora e poi vediamo se va bene. Ci andiamo la cosa di saldo la carica e ci riferiamo dopo dove era la 20 settembre. Già c'ho le chiavi, io c'ho tutto. Non costa nulla, c'è un'ora di lavoro, devo scendere, ci scendo l'antenna, stacchiamo i radiali, c'entro l'antenna dentro la finestra, monto la base di sotto, il buloncino, così ne esce il coso della carica, una volta che tolgo il cappuccio, prendo un pezzo di cavo, glielo saldo, poi gli risaldiamo e ce la riferiamo dopo delle staffe. Poi al limite un sabato domenica, quando si procura poi cemento e sabbia, vogliamo attaccare il cappello, gli facciamo il buco e andiamo di finire un altro paio di staffe di quelle onde sono, quelle espansioni, al limite gli facciamo saldare due lette, una parte una dall'altra e così gli finiamo quelle, già vanno bene lo stesso, gli facciamo, gli saldiamo un pezzo di ferro fatto a L. appena a L, dovrebbero andare benissimo quelle staffe, già non le scendono più, con un po' di cemento della Bianco. È positivo, ma non vendono la malta già pronta a impastare, capito? Senza stare lì a sabbia, a cemento, la metti dentro la caldarella, giri e c'è già l'impasto pronto. Sì, vabbè, già lo so, c'è la intonaco pronto, cioè vabbè, come non deve fare nulla, c'è anche l'intonaco grosso mi fa, ma poi c'è un chilo di cemento, ma costa 42 euro almeno, ora per le sabbia si trova, no? non è quello il problema, bisogna andare nei cantieri del comune per trovare, sai quanta c'è di sabbia lampata, dovete fare mezzo chilo di sabbia, voglio abbattere la volta lo so per tappare il buco. Sì, non c'è problema, cioè un sacchettino di malta a cazzo qui pronta costa 3 euro, capito? Non sarà quello il problema. Sì, va bene, ok. Bisogna far saltare quelle staffe lì con delle piastrine da qualcuno. E così li agganciamo col cemento, se la tocca in culo, un paio di giorni già asciuga. Allora, poi che già rimane fermo, non si muove più. È positivo, là. Va bene, va bene. Niente. Non c'è nessuno? C'era Franco poco fa, poi è entrato un secondo Claudio e poi è sparito Claudio. Questa portata va. La portata non si è una fortuna, se vuoi fare da fa vedi. Va bene nera. Propagazione in FM c'è, non è importante. Ci sono questi eucalai o da diavolo albanesi in FM. Io, va bene. Formatore, formato là, dottore. No, dopo lo provo. Adesso dopo collego i cavetti e guardo quegli spinottini, dovrebbe essere la commutazione per avanti e indietro. Lo pagava. Aspetta, per ecce. Tenni il casino del cavetto, accesso avvicinato, la smonto. Le passo un pennellino, così smette di fare questo rumore. E cosa fa? Avendo la C80. Ma è un bagno molto piccolo da casa. Senti. Quello lì è la polvere, ragazzi. Sì, io la vuoi pulita. Così scende, sempre di meno, che soddisfante. Perché l'apparecchio lo stavo usando pochissimo. No, è buono, buono. Va bene, va bene. Antonio, la settimana se sei libero facciamo quel lavoro del microfono, così elimino la batteria qua. Il microfono, almeno elimina la batteria, non è far sventiare, cazzo ne vuole, ma cambiare la batteria. Sai quanto messo chiave la messa nella S80, cazzo, più che l'ho messo girato nel bar, giubilato per a quanto avevo i cavi c'erano 6 cavi, altri 7 addirittura. C'erano 6, ho dato su valore di più, poi la massa va a fare direttamente il microfono stesso. E la prende dalla porta, la commutazione della portante. Agganciata, primo colpo, tu perfetto era, funziona benissimo. Perché se controlliamo dopo l'alimentazione lo troviamo subito. Positivo, positivo. Almeno vedrai che c'è bene. Esce perfetto. E anche adesso già c'è perfetto, però è sempre. Sta andando con la batteria, capito? Invece lì è già alimentato, va bene. Ah, la batteria tanto le foto più niente, una volta che c'è la alimentazione diretta sei tranquillo, inserisce dei andenti. Guarda, poi io volevo alimentare cosa, però è pochissimo, cazzo. Sono rimasto fregato. Volevo quando schiacciava la portata mi sembrava la notizia del modulometro. Allora invece non si poteva fare, perché come schiacciava la portata, se ne metteva la lampadina di quelle cinesi si spegneva il led di trasmissione. Non ce la faceva, perché pochi mila ampere. Peccato, giusto il microfono di alimenta. Ciao, volevo fare una cosa bellina dal microfono, cioè quando schiacciava la portata si accendeva il led rosso, no? Che ti segna TX. E illuminarmi il modulometro e invece sono andato fregato perché non ce la fa. E io vabbè, ma già va bene anche così, infatti va stato così, già va bene così, volevo fare una cosa più bellina e invece vabbè, gli andrà bene come sta andando. L'unica cosa è che gliel'ho messo dove c'è lo smitter, ogni volta che attaccavo la lampadina un mese durava. Visto che mi sono girato la barra, ho preso che ho messo uno di quei led di piglia, di come accendini. E ho messo a fare a posto. Siamo già ruolo, Ugani. Adesso mi fa la pipì in terra. Si è arrabbiato perché è uscita Simona. Si incazza. Portalo, portalo, svuotarsi le olive. Sono recupero proprio, cioè esce fuori. Io qua io ci capisco adesso tutto mio. Cattivo è stato, non ti ha portato giù. La coppa di sigaretta, non ti ha portato. Si è mangiato mezzo pacco di patatine lì, di quello fai. Ma guardo! Mezzo pacco di patatine fai da mangiare. Vizioso. Sì, vizioso, intanto ho imboccato buono. Quando mangia la pizza si vola, si mette davanti come un coso di pane. Allora, spesso mangia pure la pizza così. E ora di tutto mangia, pizza. Con l'accetto, mi viene. E tanto come da fare abbastanza al forno, oggi domenica. Ecco, no, io devo fare i ravioli, così mangiate quelli, senti. Oggi mangia 8 ravioli, belli, bollenti mi si rimangia. Oh, non freddi, no, bollenti. Senti. Che amagava, va. Aspetta un secondino, dietro su. Ehi, d'accordo. Risolto il punto hai. A testa Franco. Sì, io. E beh, tutto è risolto? Sì, io. Tutto. Adesso c'ho il computer da buttare qui. Ah, sì. Ma, vedi così. Ha calzato là il frequentimetro. Sì, io. Allora bene. È perfetto. Ok, molto bene. Bene, beh, com'è il tempo lì? No, ci sta bene oggi sta bene. Non è né caldo, né freddo, così è. Ah, te l'ha fatto buono, guarda, ma sta tutti buono, tutto oggi per me, Maina. O mille senni che stanno, un bel giovanino, sì. Infatti, un giorno mi ha fatto danno. Vai. Ah, se non va a cavare da voi non li fate più, A voi non li fate più. Ma fa uscire meglio le volte a nulla. Beh, fa danno, no? Cazzo, ma quando fasi senza far danno la cuzione andare. Ma quando fasi danno che pure sei, allora fa danno meglio non li fosse a niente. È un figlio. Bene, com'è questa radio fa? Cappa, aspetta un attimo, Giovanni, che qualcuno vuole entrare. Chi è che vuole entrare? Avanti, chi vuole entrare? Tu, ancora, vera uno che ti passa e va, non può entrare. Avanti, Giovanni. Non ho capito cosa stavi dicendo, perché c'era questo spavolato. Voti chi se non la più gana? Entra! Evidentemente lo stava provando e ha visto che c'era gente e ha smesso. E io, niente così fra. Sta pensando che un po' meno questa radio che sto provando l'Intec 500S. Guarda, il segnale è 8. La radio è bassissima, molto bassa. Una radio di 2,5 metri. Vabbè, sono volantino comunque, sono volantino forse per quello, capito? Cappa, infatti sei molto basso. Bene, vera. Come vai con volantino piccolo? Perché questo se va in magazzino, hai visto quell'antenna che c'è in magazzino? Lì sì! Non ho capito, no? Allora per quello, capito? L'ho portato a casa per a casa c'è l'antennone, capito? Ma giusto l'antennino, cioè la 27, capito? Anzi, la è la somma 27, anzi. Capo, allora anche bene stai andando. Ok. Infatti bisogna far camminare chissà parecchio pure là. D'accordo, ci sentiamo, dai. Buon proseguimento di giornata, buon pranzo e ci sentiamo alle prossime. Ciao Franco! Ciao, vai, buon pranzo anche a te, buon tutto, ce la riascoltiamo. Ciao Gianmarico, buona giornata. Yeah. segnale potrebbe essere anche buona, ma di segnale se il basso basso. No, la radio comunque sembra buona, c'è un pochino di QRM, quindi ti ascolto in mezzo al QRM, però dovrebbe essere buona la radio. Però in questo canale magari c'ho un po' di QRM, capito? Quindi non ti ascolto tanto bene. Però la radio comunque sembra buona. Ok, va bene. Chi è che vuole entrare? Attento, Massimiliano. Sì, capi tu. Cambia da Momo. Un'altra musica, Momo, Questo è il keyboard. Lo sanitato già l'assumi, ma... basta il cambio, questo qui devo procurare il comune di Puma, tanto poi mi avrei comprato altra roba da poco San Giorgio, che c'è una che conosco che vende la roba professionale dalla via Mattoi, quindi sì, non ne ho problemi, hai capito? No, quando si è attaccato un grande amico mio, però non ha mantenuto, siccome le può cambiare i gomme di Puma roba, ho detto telefono già, anche io c'ho, per lui lavora con costanti gomme, quindi lo conosco, quindi però... io glielo ho detto quanto devi adempire perché non abbiamo figlio di un'altra, no, tu vedi nei buschi della manca che ti ricordi di letto, di nome, anzi di una parte del rosso, hai capito, gli affari che le avevo da mio figlio, poi mi salì, hai capito, che io quando viaggio devo viaggiare con passeggeri, no, non è un camion quello, Massimiliano, lì se ti scoppia una cosa, mi mettono dentro a me. Fai bene, giustamente. Ok, perfetto, ma dopo tu hai sai che sto sistemando un po' qui con questa condensa, grazie alla stufa e niente, Massimiliano, quindi la radio si qualche battuta con Piruccetto, però quando la ruota è grande poi non riesco a riempire. Qui ha fatto anche danno la condensa, mi ha rovinato un po' l'1231. Rovinato, perché qui diciamo che è un conduttore elettrico, quindi io non ci sono stato più andato a capo, perché ho questa roba, l'ho affidato, forse ha fatto contatto, non lo so, infatti dove c'è, come si chiama, e io ho sbagliato a lasciare la fila attaccata, perché la mattina l'ha acceso e lì c'era tutto inserito, capito, ma non è successo nulla, ecco le sto comprendo quel poco che ho lasciato con una di quelle tovaglie di plastica e quindi già la corrente deve essere assolutamente ripaccata, se no quando meno te la spetti, no, lo sai perché anche la chiama, perché questo bimbocetto dentro c'aveva il coso con quelli grigi che sembra un po' la droga il pannello, e da lì la condensa è entrata e l'ha fatta la padrone, ok, quella roba lì vuole scoperta proprio di non entrarci nulla. Positivo, ma quindi non va più? No, sta fermato e deve essere partito, io sono qui salito Massimiliano, sapevo il rientro dell'asilo, sapevo, ho tolto, quando mi piglio la ciabba che non... Apri tu. Beh, Massimiliano, con una spina che qui mi sto là, con questa ruba corrente che non è inserita bene, perché ho che mi faccio il rosso. Ok, lì Massimiliano, si può mettere a posto, si può, però ha fumato, il trasformatore vuole cambiato perché quello ha spettrato quanto i fili... Hai capito, e lo devo fare controllare più in là, hai capito, perché sono cose pericolose, però per fortuna che sono salito, se no si era bruciato tutto qui, è bruciato altra roba che non c'entrava assolutamente nulla, la spina vuole attaccare, e la questa condensa la stufa, c'è il coso, la tappa del muro non ti ne accorgi Massimiliano, però c'è una tapparella che va alla soffitta, quella lì c'ha le gocce, e noi quando saliamo la notte a letto, quando la tapparella c'ha le gocce, lì bisogna stare sempre asciugandola, però da lì non è caduto nulla, però sicuramente ha fatto qualche, come si chiama, di condensa dentro, come si chiama, del lineare. Positivo, positivo. E poi, ma tu l'alimentatore buono ne hai, sì. O un alimentatore un po' grosso, da quanto ce l'hai tu l'alimentatore? Io ne ho uno da 40 e lo sto usando adesso. Sì, perché io un coso già ce l'ho, però va a 24. Ma non ti preoccupare, Massimiliano, ma gira, prima da una parte si può mettere a una parte si può mettere per il momento, non ti preoccupare più di tanto. E altro che quello mi capita. Ma no, dispiaceva perché c'era roba che poteva prendere fuoco a sua roba e quello mi. Non è stata una roba tempestiva. Io la mattina ho finito le robe e poi dovevo riandare la sera perché c'era mensa, ci avevano tutti la mensa e quindi il corso iniziava di pomeriggio, dopo dalle 3:30, poi 4:30 la elementare, 5:30 e quindi l'ho avuto fatto il giorno anche a Sassa il giorno. Sono rientrato, lo sono anche a vedere chi c'è, come lo accedo per ascoltare, e lì mi ho inserito la chiamata, c'era anche lui collegato, e ecco perché mi ha fregato, altrimenti non mai so, la prima cosa mi ha anche ieri notte, antenna, ne ho staccato, spine, tutto quanto quello che vuoi, e per facendo una cazzata, però molte volte, e ho visto anche qualcosa in internet che ci mette per i pulmini, Claudio già lo sa, un giorno che viene Claudio, adesso te l'ho fatto vedere che se quello, c'ho anche il connettore per mettergli quella roba, che praticamente è una T, un connettore tipo di quelli a pelle che è una T, e lì si mette questa cosa che contro quando sono in pugile, deve essere altro quella, perché l'ho visto nel computer e quella lì la contro anche per, capito, per averla, capito, come difesa, perché ha detto Giulio, quell'altra volta ha visto il capo del corno, che sembrava un serpente, anche molte volte se non è collegato Massimiliano, secondo come scarica e ti fulmina dentro casa anche. Fulmina dentro casa, ma se uno c'ha un impianto fatto come si deve, con massa a terra e tutto, non scarica proprio così, Io l'ho fatto io, tutto a tre fili, ricordosamente la massa a terra che non si è dovuto salvare vita, l'ho messo da poco Massimiliano, ne ho approfittato perché c'era l'impresa che aveva scappato la strada, ho comprato un bel palo, ho comprato di quella massa a terra, la freccia di rame, ho fatto me l'ho fatto, poi ho fatto la prova, scatta che è una bellezza, no ma non è neanche quello Massimiliano, lì anche qui è sceso il fulmine nel mese di ottobre, è partito dal capo dell'antenna della televisione, è partito dalla Caracurica, poi lì è andato, anche se a me mi dicono che è partito dal telefono, vabbè è partito sicuramente dal capo della televisione, perché lì viene buttato anche la presa dal, come si chiama, il liquido, per cui lì è seguito tutto il resto, e ha fatto un po' di danno, è partito un computer, il modem, il telefono portatile della linea fissa, lo schermo, le cose, capito, un po' di soldini che ho spero Massimiliano, però dei taracchi non c'è nulla perché era tutto staccato perché c'ho 41 senso, il giorno mi ha fregato come così, però quello lì non ho dovuto assumere, ma la contesa che mi forma la stufa, adesso non ce n'è ancora perché abbiamo acceso la stufa verso mezzogiorno e mezzo, poi però di sera poi come qui diventa fredda la camera, con caldo del corpo in forma questa condensa, ed è sempre, infatti qui bisogna anche due volte all'anno imbiancare tutto, e così Massimiliano. Giulio mi ha detto che ho sentito che ha subito danni dal fulmine, e tu guarda, che cosa ti fa danni costosi a molte volte. A me mi ha bruciato il coso, il modem, quello di Tiscali, infatti stiamo aspettando, questa settimana dovrebbe arrivare quello nuovo, ecco perché infatti abbiamo chiamato e prima hanno detto che c'era un virus nella linea VAT, invece hanno controllato bene e non c'è niente, eppure hanno constatato che veramente è stato il fulmine che mi ha bruciato il router, diciamo. Ok, no, io anche quello lì, meno male che me l'hanno sostituito, più il telefono fisso, Massimiliano, l'avevo attaccato nel mese di settembre, quindi era roba, era nuovo, era ancora, meno male, sono stato fortunato, mi hanno dato quello con le antenne, mi hanno dato chiamato poi, ho comprato un altro computer nuovo perché mio figlio, lui lo usa su internet, ha gli amici suoi e poi mi sono comprato uno mio personale a seconda mano che me lo salgo qui quando vuole qualcosa del di radio, perché io non c'ho, sì, c'è il sito di nuovo, l'avevo cancellato, adesso ci ho rimesso il pullman e tu dici, ma perché non c'ha? Perché non me ne frega nulla che ho altre cose, ho trovato da pensare di stare, posso vedere anche qualche foto della canzone, però a fare c'è stato Massimiliano, non ne ho il tempo, non mi piace stare scrivendo sulla tastiera a fare amicizie di virtuali, assolutamente no, capito. E così ci ho preso, quindi mi guardo con le radio, questa che ho fatto ieri notte, lo schema, proprio uno che ha trovato il tunnel più 3 nei minimi particolari, lì ho guardato, l'ho rimesso, no, funziona bene, era di Natalino, però lì tocca, hai capito, io siccome la notte era proprio frequente, l'ho guidato io un po' Natalino, il più 2 era questo, hai capito, anche il più 2 l'ho restaurato tutto a nuovo, hai capito, e niente, perché i fili devono essere perfetti, il cavo ce l'ho nuovo, non glielo cambio Massimiliano perché questo è originale, sto con questo cavo originale, quindi lascio questo perché fuori l'aspirare è nuova, erano solo quei filettini, ma finissimi Massimiliano, finissimi, non grossi come quelli degli altri cavi aspirati, e ci passano all'incirca 6-7 fili passano. Positivo, ma perché già tu c'hai il profilo Facebook? Io so come si chiamano, ho fatto i miei figli, sì, ci sono, c'è il pullman, c'è, hai capito, la foto l'avevo fatta, la foto qua c'era quando stavo lavorando in linea lì a Sentino, quella fotografia, no, perché stavano iniziando a rifare così richieste di amicizie che io non accetto assolutamente, e i miei figli l'hanno fatto giusto per... niente, qualche cosa che ho presa di amici, ma tutti in anni per io, non ho tempo a stare attaccato a queste cose. Questo ci ho messo ieri, mi proprio per esserci, c'è il mio nome, già in casa, c'è il mio pullman, c'è, e poi basta, devo mettere qualche fotografia, però a cantare Massimiliano è una cosa che non voglio avere niente a che fare, capito? Qualche cosa che devo chiacchierare, chiacchierò alla radio, perché sono troppo pieno di casini, di cose, e non mi interessa, capito? Perché poi se l'accetta uno, l'amicizia una, la devo accettare agli altri, perché poi qui così, a una gliel'ho cancellata, e infine l'avevano acceso, questa la manda, l'amicizia, e loro hanno accettato, perché ogni tanto sì, siccome c'era quello del pullman, mio figlio si collegava, hai capito, a vedere se c'era da accettare, poi me l'ha detto che mi ha cancellato, perché io non ce l'ho accettata io, ho detto l'amicizia, io ho detto c'è così, però non più di tanto, ma se mi hai capito, io chiacchierò qui nella radio, a me mi piacciono le radio. Sì, ho capito, quindi no, ma per... Allora non te la mando la mia amicizia, se non l'accetti, quindi va bene così. No, per il momento Massimiliano, però se anche che a voi me la possa, però poi lo sai cos'è Massimiliano, io non voglio avere capito, come si chiama, perché poi si mettono amiche, io non le voglio, amicizie, capito, sono scontato di avere amicizie femminili e non le voglio, e gli ho detto a questa, non mandare amicizia che non le accetto perché no, c'è una cosa in noi che siamo in radio, con voi è un'altra cosa, compreso, metti come si chiama, che è roba di radio, allora sì, Massimiliano, capito, allora sì che te la... Però diciamo, come si chiama, che io mi metto a cantare, come che ce ne sono certi, che io molte volte seguo in altri computer, guardo, che stanno o pieno alle 3 del mattino, ma stiamo scherzando, alle 3 del mattino mi curico, Massimiliano, mi faccio le mie cose, bello è bello perché tu parli col mondo e se c'è una con il mio c'è anche la telecamera, c'è tutto, il portatile, me lo posso portare dove voglio, hai capito? Però diciamo che io alle 3 e 4 del mattino ci sono, c'è gente che schiappa, poi ci sono questi giochi che ho visto, di stanno giocando a carte, a queste cose, con Camilla Massimiliano, devo pensare a te, capito, al volo, a mandare avanti questa roba che ho intrapreso, perché adesso l'inverno l'ho fermata, però per l'estate almeno per aiutare i miei figli la devo mandare avanti. Positivo, no, no, su quello già ho capito, ma io la verità, il profilo Facebook ce l'ho da un po', diciamo che la maggior parte di questi che parliamo qua in radio, come amici ce li ho tutti, ma neanche io sono il tipo che sto lì a frugare, cioè nel senso, entro, guardo, non sto lì a chattare, capito, guardo se c'è qualcosina di divertimento, ma senza stare lì, diciamo, a scrivere, a fare, perché cioè è capitato di mandare i saluti, gli auguri e cose del genere, ma neanche a me, perché poi come ti metti in linea subito ti arrivano ciao come stai, ma non da uno, da 2000, e devi rispondere a tutti. Infatti io sto sempre in offline, capito, come entro, mi controllo chi c'è, chi non c'è, guardo la posta e basta, tutto lì. No, su quel fatto già ti do ragione, non sono neanche io il tipo che sto fino alle 3-4 del mattino al computer. Ma io c'ho a Claudio qui, che qui diciamo sono le 3-4 del mattino quando sai, no, a me non mi interessa, però che gusto quando vai uno a quell'ora non dorme, ne capito? E come si chiama che io lavoro, capito, la mattina alle 6 sono già alzato, c'ho tutte quante queste cose, Massimiliano da mandarmi avanti, cioè, però poi no, non posso stare, questa si è offesa, si è. Ma guarda che non te la sia stata io, siccome sono i miei figli, capito, che la computer grande stava controllando roba a casa, perché c'era il collo del pullman, poi ne ha aperto un altro lui col collo della carta trapper, perché la carta trapper è il mio collo, e che lui ha messo cose, beh, ha fatto, lui non gli ho detto nulla, al grande, ha fatto lui uscito col mio collo del pullman, un gruppo, il gruppo carta trapper, aveva portato, non so neanche se c'è più perché non sto guardando, beh, era pieno di gente, a me, mi fa piacere finché te lo dici tu, però hai capito, no, coinvolgetemi in queste cose, perché la carta trapper sono io, sono il padrone del coso, hai capito, e grazie a Dio lui c'è, sì, amicizie, hai capito, però lui è come me, il grande come me, ma molto riservato, cioè sì, sembra che uno, però sei fatto suo, non sai se è fatto suo, hai capito, difficilmente uno se lo mette dentro il sacco, sempre dici, dice, ma sì, e quindi a me ha fatto molto, però anche contento, per come si chiama, nelle parole, da me non convolgetevi, perché questa si è offesa, mica, io ho detto, ho cancellato perché non te l'ho accettata io, perché ce l'ho la sera, amicizia, la devo dare un'altra, la devo dare un altro, hai capito, no, io ho tempo di stare lì, perché quando dopo c'era, io mi salgo alle radio, qui quando sono sempre nelle radio, qui è la mia passione, Massimiliano, però è bello il coro, cioè la mandate voi, che adesso lo sto allestendo ancora, bene, fatto bene, Massimiliano. E quindi se siete voi in un'altra cosa, perché se lo vengono a quelli, sì, quelli sono miei colleghi, sono radioamatori, sono cose che io ci sono tanti anni ed è solo per le radio che ce li ho, non ce li ho per dire fesserie, qui, là, perché poi ce l'ho anche, ho visto, anche dei vestiti, che in cui sono questi ciardi, paesi di brutto o di queste cose, Massimiliano, non devono capitare, hai capito? Per carità, perché io c'ho, quando mi arrivo c'ho un brutto carattere, scatto, così, mi viene l'ira ai 5 minuti che divento un'altra persona, e quindi non voglio essere, cioè, voi un'altra cosa, capito? Quelle persone che non mi guardano la radio, io non accetto, riprendi Massimiliano. È positivo, ma fai bene. E vabbè, non è che bisogna mandarla, accettarla a cani e porci. Cioè io guardo, no, a volte mi capita, accendo il computer, richiedo amicizia, e magari è questo ragazzo, qualche ragazzo che io neanche conosco, capito? Ma infatti non lo accetto. Diciamo che la maggior parte che c'ho su Facebook sono tutti amici che conosco, attenzione. O magari da scuola o da bambini, o magari vedi lì in propagazione ti ascolti con gente che ci moduli tutti i giorni, allora magari ti richiede l'amicizia, ti scambi due foto, ti guardi le foto del camion, delle radio, Solo questo, per questo ho fatto qua, ma se no del resto non è che mi interessa. No, io ho fatto così, Massimiliano, perché è capitato anche quest'estate, eravamo a raduno delle fisarmoniche alla Maddalena, capito, ero lì per controllare, diciamo, come da fare la roba, sono coloniato con mio figlio, non la sono più, capito, perché ormai le mani sono, non vuole riesercitare, prima cosa l'ho fatta proprio appena per far vedere un ballo, così che non santo non è mai fatto, per qualche passaggio a mio figlio che sta imparando l'organetto, già a buon punto, che un mese già a buon punto, però liscio non lo sono più da tantissimo tempo, che si danno anche elettroni, che si operò con il ritardo. E questa mi ha visto, siccome c'era uno di Olbia, che è un grande amico del padre, che era fisarmonicista, anche lui non suona più, capita da capo officina lì a Olbia della Renault. E niente, poi va anche quel tuo signore, anche quello che è venuto al matrimonio tantissimi anni fa, con ha sposato questo Cusu, che è un grandissimo fisarmonicista, non sono i figli, neanche lui, Francesco, però avevamo fatto una grande serata con i fisarmonicisti lì all'Offerta Boia. E subito stavano attaccando Spago, sono sceso con tanto di gentilezza e me ne sono andato a sedermi in un bar che c'era per tagliare, capito, tagliare il corso, Massimiliano, non voglio, hai capito, ci sono le telecamere, ci sono lì, quando c'è questa manifestazione, e mi hanno mandato i filmati, beh, tutti i passi che ho fatto lì nel parco ci sono, Massimiliano, figurati se va a finire in qua come si chiama, perché l'altra volta l'hanno fatta anche in televisione, che ho dovuto attaccare il bottone, a fare e a disfare, capito? Non mi va bene, cioè subito, ecco, saluto a tutti, quando arrivo a Chicetto qua tutti la mano, però poi sono, rientro nelle mie cose, e mi seguo la serata, mi seguo, anche devo fare i complimenti, le faccio i complimenti, però non deve andare oltre la roba, hai capito? No? Subito stavano organizzando, hanno organizzato una calangiano, poi io non ci sono andato, neanche mio figlio, perché lì non c'ho il come si chiama, io sono quello sempre alla Maddalena, ogni anno che è un grosso figlio da uno, e basta, hai capito, però sempre, diciamo, sto sulle difensive, educato con tutti, però ormai mi avete capito che persona sono. Sì, già, sì, vabbè, no, per quello non c'è problema. Poggiati, c'è sempre? Sono con la bassa, che mi devo allontanare dalla radio un quarto d'ora, 20 minuti. Poi se ci sei ancora riprendo dopo. Perfetto, ma ti vediamo, non ti preoccupare, fai col comodo, qui sono sempre accese le radio, hai capito? Adesso mi ascolto qualche roba in V, accendo le V, le U, hai capito? Cioè non sono da solo, hai capito? Quando ascolto qui ascolto altre parti, fai col comodo, ci mancherebbe, Massimiliano, prima il dovere e poi la radio. A dopo, Massimiliano, un grosso saluto, ciao. Ciao, capito, a dopo, ciao.